figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buona giornata da Valentina Furlanetto a tutti voi che siete all'ascolto, ma in particolare alle signore, perché domani è l'8 marzo, quindi la festa della donna, una giornata in cui ricordiamo le lotte per i diritti di tutte le donne, in particolare in Italia, delle nostre madri, delle nostre nonne. Forse per le donne della nostra generazione questi diritti e questa indipendenza sono valori ormai acquisiti. Non è esattamente così per le donne di altre parti del mondo. E quindi vogliamo aprire questa puntata con un progetto del CESVI, una mostra fotografica che sarà inaugurata il 9 di marzo a Milano, si intitola FAM, ed è dedicata alle storie di 9 donne che in Marocco, grazie a un progetto di educazione e di professionalizzazione, sono riuscite ad avere una loro indipendenza economica, che significa sempre anche libertà. Fra loro anche Fatin, che abbiamo raggiunto telefonicamente in Marocco, dove lavora. I have 26 in my old. Ho 26 anni, ho sempre lavorato per mantenermi agli studi, ho studiato lingue e dopo il corso come cameriera ho fatto un'esperienza contemporanea come receptionist. Sono stata assunta presso l'hotel Ramdal a Tangeri. Questo lavoro mi consente di interagire con i clienti di nazionalità diversa. Ho realizzato così il mio sogno, posso aiutare economicamente la mia famiglia, posso vivere da sola con una mia amica. Avrei potuto andare all'estero per lavorare, ma grazie a questa opportunità preferisco lavorare nel mio paese. Il mio lavoro è molto importante per me. E questa era Fatin, questa ragazza del Marocco che è riuscita, grazie agli studi e a un progetto di corsi professionali, a realizzare il suo sogno. Ma noi cambiamo argomento, occupiamoci invece del sit-in che stanno organizzando, che hanno organizzato diverse associazioni di disabili gravi davanti a Palazzo Chigi per protestare contro alcune decisioni. Ne abbiamo parlato con Tommaso Daniele, presidente dell'Unione Italiana Ciechi. Il problema riguarda il servizio civile volontario, che è molto utilizzato dai ciechi per l'accompagnamento, la compagnia anche per l'assistenza domiciliare, anche dagli altri disabili gravi. Ora, all'inizio, quando questa legge è stata istituita, i ciechi e gli altri disabili gravi avevano un numero sufficiente di giovani disponibili, poi è diminuito il budget da parte del governo e sono aumentate le associazioni che fruiscono del servizio, e quindi attualmente i ciechi e i disabili gravi non hanno un numero sufficiente di giovani del servizio civile volontario. Noi abbiamo cercato di spiegare queste cose al governo, in particolare al sottosegretario Giovanardi, purtroppo non abbiamo avuto risposte adeguate. In sostanza, che cosa chiediamo? Che nella graduatoria dei progetti stilata dal servizio civile volontario ci sia una precedenza sino al 20% per i progetti che hanno per oggetto l'assistenza ai disabili gravi. E non avendo avuto risposte dal governo, perché questo argomento lo stiamo trattando da circa un anno ormai, non avendo avuto risposte adeguate, siamo stati costretti a organizzare questa manifestazione a tempo indeterminato. Ogni giorno una rappresentanza di ciechi e di disabili, una cinquantina di persone, sono lì davanti a Palazzo Chigi e chiediamo l'intervento del Presidente del Consiglio affinché, insomma, il nostro problema sia risolto. Vengono utilizzati per finalità, a nostro giudizio, poco meritevoli di attenzione. Ad esempio, sono impegnate per la promozione della cultura biologica, per la diffusione delle società di bocciofili, per la promozione della birra, cioè solo per la promozione del miele.